che era navigante, quindi io, la cosa che mi manca, che da ragazzino mi faceva sognare, era il passaporto di papà, che non l'ho mai ritrovato, chissà com'è scomparso. Il passaporto di papà negli anni 50, negli anni 60 ci stavano i timbri di Singapore, di New York. Mio papà non era pescatore, papà era nostromo di petroliere, quindi trasporto di petrolio, mi raccontava che da Cuba portava il tabacco o lo zucchero, erano navi mercantili, quindi girava il mondo e mi riportava il cinte, il marchio era lì, L-E-E, i lì.